6B. Ascolta e controlla. 1. Che cosa prepari? Preparo un dolce. 2. Chi paga il conto? Oggi Alberto paga per tutti. 3. Quando inizia il concerto? Inizia alle 20. 4. Che cosa domandano? Domandano il nome del professore. 5. Quando arrivate? Arriviamo a mezzanotte.